Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, un buon inizio settimana a tutti, spero che per voi sia un po' migliore del nostro. Qua già a Milano cominciamo con il grigiore, la pioggia che ci accompagnerà ancora chissà per quanti mesi, insomma mesi interminabili di grigiore. E vabbè, speriamo di allietarvi le giornate con le nostre amenità economiche e finanziarie, e mica tanto amenità, insomma sono le questioni di portafoglio che ci interessano tutti. Allora, oggi nuovo lunedì in collaborazione con la guida pratica del Sole 24 Ore. Oggi non facciamo fatica ad immaginare che andrà a ruba e speriamo che ci sia lo stesso medesimo effetto anche ai nostri centralini. Perché? Perché oggi ci sono le istruzioni per l'uso su tutte le novità in condominio. E le novità recenti sono molte, come se non bastasse la regolare vita di condominio ad animare il dibattito. Ecco che puntuali arrivano novità legislative e soprattutto frequenti pronunce e sentenze che animano il dibattito intorno alle questioni condominiali. Allora, prima di tutto vi ricordo che potete rivolgere i vostri quesiti al pool di esperti, basta collegarsi al sito del Sole all'indirizzo www.ilsole24ore.com/condominio, seguire tutte le indicazioni. Poi il nostro Cristiano Dell'Oste, che è già qua, ci racconterà quali esperti ci sono e su quali temi possono essere interpellati. Cristiano, ciao, bentornato. Buongiorno a tutti. Gli facciamo fare una vita impossibile perché praticamente è sempre qui con noi, ma noi siamo molto contenti. E poi vi presenterò anche gli altri due ospiti che sono a Salva Danaio. Io ricordo proprio che Cristiano Dell'Oste, che ha coordinato questo dossier, oggi scriveva sul Sole: a fronte di appena, ti cito, pensa che importanza ti attribuisco. Grazie. A fronte di appena 23 articoli di codice civile dedicati al condominio, ogni anno vengono emesse decine di migliaia di sentenze che plasmano una materia in continua evoluzione. E noi stamattina abbiamo due esperti che conoscono praticamente tutta la giurisprudenza del settore. Come facciano non lo so, ma noi lo sappiamo bene che sono così bravi perché li abbiamo messi alla prova più volte, e anche stamattina ci daranno una mano ad orientarci nella giungla della disciplina della vita di condominio. L'avvocato Augusto Cirla, segretario nazionale di Assocond, l'associazione italiana condomini, benvenuto, bentornato. Buongiorno. E al telefono l'avvocato Eugenio Correale, capo ufficio studi della NACI di Milano. La NACI è l'associazione invece degli amministratori di condomini. Avvocato Correale, bentornato anche lei. Grazie, buongiorno signora. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. La borsa io ve l'ho già raccontata in avvio di giornale radio, prima nel corso del giornale radio, giornata negativa, non spenderò altre parole. Una settimana che aspetta la pubblicazione del dato sulla disoccupazione americana, e oggi si parte con il piede proprio sbagliato perché è tutto in calo il mercato azionario europeo. Milano perde l'1,29%, le altre piazze un punto, Londra -0,52%, le valute sotto i riflettori come sempre, 1,3691 il rapporto di cambio adesso fra euro e dollaro, dopo che in nottata l'euro ha fatto una puntata oltre 1,38 sul biglietto verde. Ma la borsa la lascio subito perché andiamo immediatamente al tema di oggi, le novità della vita di condominio. Per molti sinonimo di liti ed eterne contestazioni, le assemblee di condominio sono un appuntamento, forse non proprio piacevole, cui è sempre meglio presentarsi ben preparati e soprattutto aggiornati, vista anche la rapidità con cui cambiano norme e regolamenti in materia. Recentemente la Cassazione si è espressa su molte questioni rilevanti per condomini e amministratori, e nel frattempo continua ad essere in discussione il testo della riforma del condominio, che diventando legge potrebbe portare a consistenti novità. Ha fatto molto parlare di sé la sentenza che consente di stabilire a maggioranza e non più all'unanimità le modifiche delle tabelle millesimali, una delle cause delle più feroci contese tra vicini. Ma vanno ricordate anche le strade che un condomino che si trova in minoranza e in disaccordo può intraprendere se si sente danneggiato, chiedendo la revisione, la nullità o l'annullabilità della decisione presa. La Corte si è espressa anche in merito alle liti che finiscono in tribunale, stabilendo in quali casi l'amministratore può rappresentare il condominio davanti al giudice, non essendo un rappresentante in senso tecnico, come accade per le società, bensì un mandatario, che deve essere autorizzato dall'assemblea. Più chiarezza anche per quanto riguarda rumori molesti, cattivi odori, fumi e tutte le altre cosiddette immissioni. Chi ne è responsabile in caso di locazione? Il proprietario o l'inquilino? Arriva un quadro che permette di stabilirlo e che assolve il proprietario, che nella maggior parte dei casi non risponde delle azioni dell'inquilino, a meno che alla base non ci siano mancanze nella manutenzione o difetti strutturali dell'immobile. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Sto già cominciando con gli occhi a scandagliare un po' i quesiti che stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori, oltre a quelli che stanno già arrivando al sito internet. Sono già centinaia, Cristiano, vero? Sì, sono insomma più di 200 però. Ecco, insomma, no, perché c'è un ascoltatore che ci scrive: vorrei capire come comportarsi con chi vende porta a porta. Si può denunciare? Adesso questo non è oggetto delle competenze né di un amministratore di condominio. Adriano, lo dico a questo ascoltatore che non chiameremo al telefono, è insomma un po' di buon senso anche su questo. Siamo educati, d'altronde anche queste persone sono persone che lavorano, bisogna avere un po' di pazienza, comportarsi in maniera naturalmente gentile ed educata, sperando che dall'altra parte poi ci sia anche lo stesso comportamento. Non insistiamo se una persona non è interessata e soprattutto non approfittiamoci della buona fede delle persone anziane, punto. Questo è un argomento terminato. Cristiano, allora, quali sono gli argomenti che avete esplorato relativamente alle novità di condominio in questo speciale che esce oggi? Oggi com'è possibile interagire con gli esperti del Sole e soprattutto qual è la rosa degli argomenti che avete individuato e sui quali vi si può interpellare? Guarda, noi abbiamo cercato di concentrarci sulle ultime novità contenute nelle pronunce dei giudici, visto che, come dicevamo prima, quella condominiale è una materia che viene soprattutto regolata dalle pronunce, dalle sentenze della giurisprudenza e della magistratura. Abbiamo analizzato questa sentenza che consente di modificare a maggioranza le tabelle millesimali, poi ce n'è un'altra emessa all'inizio di agosto che riguarda invece la legittimazione ad agire in giudizio, quindi la possibilità di stare in tribunale dell'amministratore con i casi in cui l'assemblea deve ratificare la sua scelta, i casi in cui invece lui non ha bisogno della ratifica dell'assemblea. Poi ci siamo occupati di immissioni, cui si accennava anche prima durante la scheda, quindi rumori, odori molesti e così via, e poi anche dell'uso delle parti comuni, che questo è un tema che è una fonte di litigio pressoché infinita, perché si va dal parcheggio a quelle forme di uso anche un po' più pesante, come possono essere ad esempio gli inquilini che si appropriano magari di un pezzo di sottotetto, lo trasformano in una mansarda e da lì partono discussioni infinite. Situazioni che peraltro evidentemente hanno proprio portato anche all'ultimo grande tema che è stato l'oggetto del dibattito, come dicevi, la revisione delle tabelle millesimali, perché ovviamente se si cambia la destinazione d'uso di un appartamento, certo, di una stanza, è chiaro che poi lì si suscita l'attenzione generale, perché è probabile che sia cambiato il valore di quell'appartamento e di conseguenza deve essere applicata una tabella millesimale diversa. Certo, perché i millesimi in qualche modo fotografano i rapporti di valore tra le diverse proprietà. Nel momento in cui una proprietà si va ad incrementare perché acquista una mansarda, in qualche modo bisogna tenerne conto. La revisione della tabella millesimale peraltro è stato il tema dell'ultima volta in cui ci siamo occupati di condominio. A fine agosto proprio con l'avvocato Correale ci aveva spiegato il merito di questa novità, che è frutto di una sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione. Adesso ci arriviamo, ma vorrei sentire anche l'avvocato Cirla, perché da anni stiamo parlando anche di questa riforma del condominio che dovrebbe arrivare a rendere, non so, più omogenea tutta la legislazione che è già in campo sul settore. Avvocato, a che punto siamo? Quando vedremo sfornata questa riforma? Si sta muovendo, devo dire, si sta muovendo sia in Commissione Giustizia del Senato e recentemente anche con una proposta di legge che peraltro noi come ASSOCON siamo abbastanza in parte promotori alla Camera. Si muove questa riforma, seppur lentamente, perché teniamo presente che è partita già dal 2004, se ne parlava, se ne discuteva e via dicendo. Attenzione però, non aspettiamoci una riforma totale di quelle che sono la normativa del condominio. Va a toccare alcuni punti, va a toccare le morosità, va a toccare i poteri dell'amministratore, gli obblighi soprattutto dell'amministratore, il bilancio, quindi cose importanti, ma che sinceramente non vanno poi a toccare la vera vita del condominio, la vita pratica, come si diceva poc'anzi, che ne so, l'uso delle parti comuni. È vero che per quanto riguarda le parti comuni la novità più grossa è che sembra che sia data possibilità al condominio di disporne, quindi di acquistarle, di vendere, non più con l'unanimità dei consensi, che era un po' un'utopia raggiungere in condominio, ma con una maggioranza seppure elevata, insomma una maggioranza qualificata. Insomma, quindi si sta muovendo, seppur lentamente. Una situazione in costante, continua evoluzione che probabilmente non sarà arrestata neanche dalla riforma in arrivo. Vedremo quando la vedremo. Io, tra l'altro, proprio a proposito della vita di condominio, vorrei sentire subito, prima di sentire anche l'avvocato Correale, una considerazione di Raffaele da Napoli. Raffaele, buongiorno. Perché quello che lui pone all'attenzione di questa mattina è un altro grande bel tema di dibattito. Riunioni, assemblee, convocate, Raffaele, che vanno praticamente deserte. Sì, volevo sapere come faccio a difendermi da questo assenteismo di tutti gli altri proprietari che se ne fregano di queste riunioni che non si fanno mai, e poi ci saranno degli aggravi per tutti, perché ci sono situazioni, diciamo, nere che vanno ad aggravarsi sempre di più per il fatto di non si possono fare queste riunioni. Certo. Io come faccio a difendermi? Come esatto. Anche perché, ecco, questa paralisi immagino che impedisca di prendere delle decisioni che saranno anche importanti per la vita di condominio. Per esempio, avvocato Cirla, anzi no, sento l'avvocato Correale, perché qua vorrei capire un amministratore di condominio, qualora questo stabile lo abbia, avvocato Correale, che potere ha in un caso di questo tipo? L'amministratore di condominio, francamente, poco. Ha un potere di intervento, di sollecitazione dei condomini, di persuasione. C'è una bella parola inglese, suasion, può soltanto invocare la presenza dei condomini. I condomini invece, per la verità, hanno uno strumento che è già previsto nel nostro codice, perché l'articolo 1105 dice espressamente che se l'assemblea non provvede, ciascun condomino può rivolgersi al tribunale per ottenere dei provvedimenti. Il ricorso ai sensi dell'articolo 1105 è anche un ricorso che non richiede l'assistenza d'avvocato, per cui potrebbe essere utilizzato. Per la verità io ritengo che la strada giusta dei rapporti condominiali sia quella dell'amministratore, che buon padre di famiglia e professionista gradito alle parti, cerca di sollecitarle e ne provoca l'intervento. Se questi condomini di questo stabile di Napoli venissero per una consulenza da lei, avvocato Cirla, che cosa gli potremmo suggerire di fare? C'è poco da puntare la tempia agli altri. Assolutamente di ricorrere al tribunale, alla volontaria giurisdizione, come diceva Eugenio Correale. E il mezzo, cioè, è ovvio che anche questo ricorso all'autorità poi non è che sia esaustivo, perché una volta che si chiede al giudice di intervenire comunque su problematiche che i condomini non riescono poi a risolvere, poi dopo c'è sempre il problema di dare al condominio la provvista per provvedere alle manutenzioni e quant'altro. Vero anche è che potrebbe in caso di urgenza intervenire lo stesso condomino ad eseguire le opere, però insomma è chiaro che di fronte, che ne so, a opere di rilevante entità, non credo che tutti i condomini siano disponibili ad anticipare se non altro somme per gli altri. Quindi l'assenza dei condomini in assemblea è un grosso problema del condominio, che e qui mi rivolgo veramente alla sensibilità dei singoli condomini. Insomma, se non sono i condomini ad interessarsi del proprio condominio, non possono aspettare la manna dal cielo, che infatti, ovviamente, come si diceva no, prima, che poi mediamente chi non partecipa alla vita di condominio è sempre il primo a lamentarsi di come viene condotta la vita di condominio, perché questo lo sappiamo tutti quanti. 800 24 00 24, il numero verde per prenotare i vostri interventi, che continueremo a sentire tra pochissimo. Vabbè, mi ero distratta un attimo perché, come sempre, il gustosissimo avvocato Cirla ci stava raccontando anche, come dire, il retroscena del suo lavoro, perché non è che è solo l'esperto che viene qua a raccontarla, a scrivere, ma lui proprio li gestisce tutti i giorni questi problemi di cui stiamo parlando. Sono questa problemi. Mattina, avvocato. Sono problemi, qualche volta condominio. Opportunità mancate da parte di molti, perché stavamo anche così ridendo un po', ma c'è poco da ridere, su chi scrive ad esempio che le assemblee di condominio non sono altro che delle imboscate organizzate dagli amministratori per far litigare i condomini, il che è veramente una percezione assurda. Ma noi abitiamo in case che abbiamo comprato, abbiamo tutti il diritto di gestire in prima persona e di vedere come in prima persona come la nostra casa e tutte le parti comuni che attraversiamo tutti i giorni, le scale, l'ascensore. Avvocato Cirla, ma insomma, ma c'è gente ancora veramente che la pensa in questa maniera? No, ecco, ci sono delle assemblee veramente che non finiscono mai, un po' pittoresche, che i condomini litigano e vi dicendo, ma io credo che uno dei principali compiti dell'amministratore, seppur non dettato dal nostro codice, sia quello un po' di governare l'assemblea, perché è vero che non ha un ruolo così formale nell'assemblea, però sostanzialmente è lui che presenzia, che corregge i condomini e quant'altro. Quindi, a mio parere, spesso dovrebbe intervenire per far smettere i condomini di discutere di cose magari frivole, quando poi dopo ci sono argomenti da molto più importanti. Il condomino arriva esausto a mezzanotte, vi dicendo che magari poi non ha approvato ancora il consuntivo, la nomina dell'amministratore e quant'altro. Quindi, da un lato, un consiglio ai condomini di stringere la sintesi. Io ho sempre sostenuto che la sintesi è una dote negli interventi, no? Bisogna essere precisi, non lasciarsi andare a tanto. E dall'altro lato l'amministratore, che a mio parere può intervenire per correggere, diciamo, la discussione. Poi, per carità, ci saranno anche degli amministratori che non fanno bene il loro lavoro, però voglio dire, andare addirittura in assemblea con la percezione che ci sia qualcuno che vuole fregarti, no, come assolutamente se primo, no. E poi voglio dire anche il fatto che si vada lì con la percezione che gli altri condomini voglio fare ma paghiamo tutti nella stessa misura alla fine, esatto. Non è che poi uno vabbè, comunque, insomma, queste sono cose, come dire, ripeto, folcloristiche e pittoresche che non ci interessano stamattina. Andiamo alla ciccia delle questioni, sentiamo Anna Maria da Como. Anna Maria. Sì, buongiorno, grazie per la possibilità. Grazie, ecco, a lei. Io volevo chiedere come può fare un condomino che si trova in uno stabile con altri 10 appartamenti a sostituire l'amministratore che non esegue nel modo giusto un lavoro molto importante, nello specifico la riparazione del tetto, facendolo sostituire da una figura legale. Ecco, mi chiedo se esiste questa possibilità. Certo, Anna Maria, che cosa gli contestate? Siete intanto tutti d'accordo in questa visione del lavoro dell'amministratore? Il problema più che altro è delle persone che abitano subito sotto il tetto, gli altri un po' lasciano un po', ecco. Cioè, la sensazione che abbiamo è che l'amministratore vuole portare le cose a un punto tale per cui rifare tutto il tetto. Mentre si vorrebbe, tutti questi, per ovvie questioni economiche, si vorrebbe cercare di ripararlo, insomma. Ho però capito. Non se ne arriva una. E quindi lei pensa che l'unica soluzione sia cacciare l'amministratore e non decidere in maniera diversa in assemblea? Ma penso di sì, perché la cosa si sta protraendo da diverso tempo. E quindi mi chiedo se c'è una possibilità, questo al limite è solo per sapere se esiste e certo. Poterlo ventilare anche agli altri. Aspetti lì, Anna Maria, vediamo se i nostri consulenti hanno bisogno di qualche altro dettaglio sul suo caso. Avvocato Correale, questa non posso non girarla a lei subito. Certo, signora, anche perché gli amministratori mi interessano molto. Chissà. Ecco, il punto è questo, l'amministratore viene nominato in assemblea e quindi se la maggioranza dei condomini non concorda sulla modalità di gestione del condominio, la strada più normale è quello di sostituirlo in assemblea. Poi può darsi pure che l'amministratore abbia delle colpe particolari e anche per questo il nostro legislatore, che ha pensato a tutto, dice c'è la tutela del singolo, il singolo condomino può presentare un ricorso per revoca. Queste sono le due possibilità. Il singolo condomino, quindi se è Anna Maria che vuole farsi portavoce di questa protesta, può intraprendere in via individuale questa iniziativa, avvocato Correale? Nei termini che ho sentito, assolutamente no. Per una ragione molto semplice, l'amministratore esegue le delibere assembleari, la signora l'ha detto, c'è un problema di manutenzione che viene sentito soltanto da alcuni condomini, quelli che hanno l'acqua in casa probabilmente, mentre gli altri non sono ugualmente sensibilizzati, e fino a che l'assemblea non approva la sostituzione del tetto, l'amministratore neppure può fare nulla. Oltretutto, se ho capito bene, l'amministratore ha già convocato l'assemblea per esaminare l'argomento e coloro che non hanno l'acqua in casa hanno pensato quello che pensano in molti, che se si risparmia si va bene. Quindi il suggerimento pratico immediato per la nostra ascoltatrice quale può essere, avvocato? È quello di sentire gli altri condomini e sensibilizzarli un po' di più. Certo. Non siamo contenti dell'amministratore, concordiamo per un nome diverso. E poi comunque, insomma, il tetto protegge tutto lo stabile. Adesso vorrei dire, a parte il fatto dell'ingresso dell'acqua nell'appartamento di qualcuno, poi a lungo andare è comunque una protezione che si deteriora per tutti. Vabbè, detto questo, andiamo a Brunello da Firenze. Brunello? Sì, eccolo. In che altra maniera poteva chiamarsi lei, se non Brunello? È anche saporito, fra l'altro. Va bene. Allora, la sua vita di condominio è saporita, Brunello? Sì. No, non c'è male, però l'avvocato non può parlare da amministratori, invece ce ne sarebbe tanto. No, altro che, li ho chiamati apposta. Ma io ho un'altra domanda, la mia è un'altra domanda. Posso farla? Ci mancherebbe. Le spese di manutenzione straordinaria dell'ascensore come devono essere ripartite? Usando i millesimi di proprietà oppure la tabella via ascensore. Brunello, si fermi lì. Andiamo all'avvocato Cirla? Certamente, ma è una spesa di proprietà, quindi non vale il criterio sostanzialmente dell'altezza del piano e quant'altro, perché parte dal presupposto che tutti i condomini sono proprietari dell'ascensore, quindi devono partecipare secondo i millesimi di proprietà. Questo non fosse altro perché è ovvio che un immobile con l'ascensore ha un determinato valore, quindi che può essere anche quello del primo piano, quello del pian terreno o quello dell'ultimo piano. Quindi è giusto che le spese straordinarie di manutenzione dell'ascensore debbano essere sopportate dai condomini in ragione dei millesimi di proprietà e non già quelli di gestione della normale tabella. Quindi se io abito al secondo piano pago comunque in base alla metratura del mio appartamento, di non proprietà che ho. Certamente questa regola vale se non c'è una diversa regola contenuta in un regolamento, no? Perché nel momento. Ma l'assemblea stesso può eventualmente stabilire diversamente di pagare anche in relazione al piano in cui si abita, ad esempio? No, attenzione, no. Se l'assemblea va a deliberare un criterio di riparto diverso da quello che è quello legale, no, allora è invalida, cade nell'invalidità, salvo che, ripeto, si adegui a quella del regolamento condominiale che prevede un diverso criterio. Allora questo è veramente un regolamento contrattuale puro, come suol dire, perché va a derogare i criteri dettati dalla legge e allora ovviamente può imporre ai condomini oneri maggiori di quelli previsti dalla legge. C'è un limite di tolleranza, ci chiede un ascoltatore. Allora qui andiamo al tema dei cattivi odori, ma soprattutto dei rumori. All'abbaiare notturno di cani nel giardino di un terratetto nel centro di un silenzioso paese o non devono abbaiare per niente? E allora noi adesso qua, come dire, il buonsenso lo dobbiamo tirar fuori ogni tanto. Il cane è Cristiano, il cane abbaia, però insomma il tema del rumore, Come viene intanto analizzato nell'ambito della vostra guida, perché tra l'altro è un tema che mi ha improvvisamente appassionato quando una decina di giorni fa abbiamo fatto a Salva Danaglio il tema della prospettiva dell'obbligatorietà della certificazione acustica delle case. Certo. Perché in realtà è un tema che è stato ampiamente sottovalutato negli ultimi anni dalla letteratura della casa, secondo noi. È vero, no? Quella è una partita importante che è ancora tutta da scrivere, insomma, perché lì si è in attesa dei provvedimenti. Però venendo al caso specifico, il codice civile detta un criterio nell'articolo 844 che è quello della normale tollerabilità per quanto riguarda le immissioni, quindi anche i rumori tra vicini. Questo è un po' il criterio di base. Ovviamente poi su cosa sia la normale tollerabilità lì si apre, come dire, il dibattito, si apre la giurisprudenza, le sentenze, le liti, anche perché ovviamente il criterio della normale tollerabilità, dice il codice, va valutato in relazione allo stato dei luoghi, in relazione anche alle attività che sono arrivate per prime. Adesso questo non è il caso specifico, però è evidente che se noi avessimo a far rumore un'azienda e quell'azienda è lì da 100 anni e poi sono state costruite case vicine, il discorso di un certo tipo. Se invece siamo in una zona residenziale particolarmente silenziosa e di colpo un bar con i tavolini all'aperto in piena estate e magari la musica alta, ecco, allora il discorso va valutato in modo un po' diverso. 7 famiglie, 8 cani, un gatto, un vero disastro di Cagnara. Cosa fare? Ci chiede Paola, un'ascoltatrice che ci scrive al 349-238-6666. C'è poco da fare, avvocato Cirla. Le capitano dei casi di questo tipo? Cioè, come dire, la presenza di un animale negli appartamenti è oggetto di conflittualità molto alta? Sì, assolutamente. Qui, appunto, come poc'anzi si diceva, va valutato nel caso concreto. Porto un esempio che mi è capitato. È un rione milanese dove ci sono parecchi cani e di notte ovvio che sono concerti, però a questo punto non è che è possibile agire contro il condomino il cui cane abbaia più degli altri, perché già gli altri ci sono, quindi una certa usanza di abbaiare di cani c'è e lo so da prima e lo sopporto. Diverso invece se il cane continua a abbaiare in un condominio dove c'è una quiete notevole, allora ci sono state addirittura delle sentenze dei giudici di pace che hanno ordinato proprio di spostare il cane, no? E quindi parecchi proprietari addirittura che conosco cambiano casa proprio perché il cane non è sopportato. Questo indipendentemente dal divieti o meno che esistano nei regolamenti condominiali, perché come sappiamo il regolamento condominiale può addirittura proibire la presenza di animali nel condominio, però il fatto che il cane abbai, insomma, dobbiamo rispettare. Io sono sempre dell'idea che il mio diritto cessa dove inizia quello degli altri, quindi naturalmente non può uno sopportare l'abbaiare continuo del cane, c'è sempre una tollerabilità ovviamente. E mi viene da raccontare quello che succede nel mio condominio, dove abbiamo un paio di animali che abbaiano irregolare, non danno fastidio a nessuno, c'è però il proprietario di uno di questi che gli lascia fare abbastanza quello che vuole dentro l'ascensore, lungo le scale, senza pulire, e lì questo veramente gli sta facendo un po' scatenare. Però detto questo è un qualche abuso. Richiamo così implicito glielo abbiamo fatto, speriamo che abbia capito. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Sono pronti Massimo dalla provincia di Monza e Brianza, Giovanni da Milano, tra pochissimo. Questa è bellissima, Cristiano dell'Oste. Ho la vostra guida dal maggio 2009, vale ancora o è meglio se la ricompro? Ci chiede Laura. Laura, dia una mano al giornale se vuole comprarla, naturalmente, perché siamo partiti dal presupposto che è una materia che cambia talmente tanto velocemente che io adesso non per spingere questo, perché mi viene veramente da ridere a fare questa promozione, però Cristiano, effettivamente il tema di cui parliamo questa mattina è questo, cioè un'evoluzione continua dal punto di vista legislativo, giurisprudenziale della materia. Sì, soprattutto giurisprudenziale, insomma, quindi diciamo che le sentenze di cui parliamo noi 2 anni fa non c'erano, poi qua ci fermiamo con lo spot. Esatto, infatti siamo eleganti almeno in questo. Allora, sono un po' indecisa se leggere qualche messaggio oppure sentiamo un ascoltatore, intanto magari ripulisco un po' mentalmente i tantissimi messaggi che ci state mandando. Giovanni da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Senta, mi riferivo anche al quesito di un ascoltatore precedente. Sì, quello sull'ascensore. No, quello no. Del condominio, della valenza, la prevalenza del regolamento condominiale rispetto alla legge. Sì. Ovvero, in caso di manutenzioni straordinarie. Sì. E se il regolamento condominiale chiede l'unanimità, vale comunque rispetto anche alla legge che adesso prevede la maggioranza? Allora, dunque, noi abbiamo parlato del tema della manutenzione straordinaria quando abbiamo toccato il tema dell'ascensore in precedenza. Avvocato Cirra, la domanda di Giovanni, che io non faccio un po' fatica a capire, per lei è chiara o gliela certo. Faccio? No, il problema è questo, che il regolamento contrattuale può derogare ai principi dettati in tema di ripartizione delle spese dalla legge. Attenzione però, perché non tutti i regolamenti, pur se indicati come contrattuali, sono tali. Non tutte le clausole contenute in un regolamento contrattuale devono ritenersi modificabili all'unanimità, e questo è quello proprio che dice e sottolinea le sentenze più volte commentate anche nella guida del condominio odierna. Cosa voglio dire? Nel momento stesso che nel regolamento contrattuale è prevista una norma che va a derogare il criterio di legge di ripartizione delle spese, quella è una clausola contrattuale pura, quindi vuol dire che per modificare questa clausola, indipendentemente da quello che sembrerebbe trasparire o meno è stato mal interpretato dalla sentenza, occorre comunque l'unanimità. I 501 millesimi quindi valgono per la modifica di quelle tabelle che sono contenute in un regolamento magari anche definito contrattuale, ma che non è tale, che non è puro, perché ci sono magari regole, norme del regolamento contrattuale cosiddette regolamentari, per queste vale la modifica dei 501 millesimi, altre valgono sempre l'unanimità. All'interno dei condomini ci sono delle situazioni piuttosto diffuse, molto frequenti, che sono quelle relative alla presenza di condomini morosi. Allora, Giuseppe da Sesto San Giovanni ci ha scritto una mail che è piuttosto articolata, mi fermo a questo punto Giuseppe perché non riusciamo a rispondere a tutto, e chiede, così come fanno molti ascoltatori anche attraverso gli altri due canali, al telefono e al nostro SMS, qual è il potere dell'amministratore di condominio per proprio cercare di gestire queste situazioni. Avvocato Correale, ritorno da lei, abbiamo fatto tante puntate su questo argomento, ma sono comunque, e lo dicevamo anche con Cirla, microfoni spenti, molte famiglie stanno facendo fatica a pagare per tanti problemi. Non pensiamo sempre che dietro al condomino moroso ci sia uno che lo fa per dispetto ai suoi vicini di casa o chissà per quale ragione. Ci sono situazioni di difficoltà economica molto diffuse che stanno portando ad un aumento dei condomini morosi. In questo caso, che cosa fa un amministratore di condominio, avvocato Correale? Un amministratore di condominio fa da sempre da stanza di compensazione. Le dirò che se questa stanza di compensazione è eccessiva, non si può applaudire all'amministratore che esige il pagamento da alcuni e sta buono nei confronti degli altri, però un minimo di comprensione, la capacità di accettare una piccola rateizzazione, bene, queste sono forme di ragionevolezza che gli amministratori di condominio da sempre mostrano. E l'amministratore secondo me farebbe bene a fare un'altra cosa che un po' rovescia il discorso che ho fatto, ed è quella di essere molto tempestivo nella richiesta. Se io ho da pagare 5 rate e non vengo sollecitato alla prima, dopo 5 mesi mi ritrovo di fronte a 5 rate di 1000 euro, 5000 euro e mi trovo in difficoltà. L'amministratore che puntualmente sollecita il pagamento e la sistemazione del debito quando ancora non ha assunto consistenza pesante, probabilmente fa bene il suo lavoro, anzi sicuramente fa bene il suo lavoro, e poi evita l'insorgere di problemi che poi sono pesanti. Quindi può avere sicuramente un atteggiamento molto comprensivo nei confronti della persona in difficoltà, ma la prima cosa da fare è tutelare tutti gli altri. Sì, ed evitare che la cosa si trascini in spese. Uno dei fenomeni più particolari del contenzioso condominiale qual è? Magari il condomino non ha pagato 2000 euro di spese, se sei costretto a fargli i decreti ingiuntivi, i 2000 euro che sono quote poi vanno ad incrementarsi con gli interessi, con le spese legali, e quello che non riusciva a pagare 2000 euro deve all'improvviso riuscire a pagarne 3200, 3400. Ecco, questa è la situazione. Per questo occorre che l'amministratore sia molto vigile, molto presente, ed eviti che la questione incancrenisca, perché a quel punto diventa ancora più difficile risolverla, perché si aggiungono gli oneri della procedura giudiziaria. Ah, questa è bella. Poi grigliate nei giardini e sui balconi rientrano nella normale tolleranza, Cristiano, qui dai rumori molesti, tra virgolette, provocati magari da animali un po' più rumorosi rispetto ad altri. Andiamo al tema dei cattivi odori, che non so se sia peggio questo o l'animale che abbaia qualche volta. Guarda, uno dei quesiti che sono arrivati al nostro forum era quasi identico, forse magari è lo stesso lettore o ascoltatore. Il punto è capire con quale frequenza vengono queste cose, e di nuovo se è una cosa che succede tutti i giorni, se è una la cosa fuligine che genera della pizzeria è frequente, mi sa, come racconta Luca da Savona. Allora in questo caso bisogna intervenire. Primo passo sicuramente coinvolgere l'amministratore prima di procedere, diciamo, ad azioni come dire giudiziarie, anche perché il vero limite della tutela contro le immissioni è che, come noi spieghiamo anche nella guida oggi, è che trattandosi poi di obblighi di non fare, perché in qualche modo tu devi obbligare un tuo vicino a non fare qualcosa che a te dà fastidio, diventa poi difficile ottenere l'esecuzione di questi obblighi in concreto. Ecco perché in qualche modo, nei limiti del possibile, una prima azione, come dire, di persuasione, quella che richiamava la anche prima, la moral suasion dell'avvocato Correale, sì, è la cosa probabilmente migliore, quantomeno in prima battuta. Massimo dalla provincia di Monza e Brianza, buongiorno. Rapidamente, forse la sua sarà l'ultima telefonata di oggi. Grazie, buongiorno. Dunque, nell'ultima assemblea condominiale hanno deliberato, col mio solo voto contrario, il rifacimento dell'impianto di antenna centralizzato satellitare per quanto riguarda Sky. Ora, siccome io non sono interessato, perché ricevo il segnale televisivo attraverso il telefono, e anche Sky, Mediaset, tutte quante le TV. E lei dice, insomma, a me non interessava questa evoluzione tecnologica del mio stabile. Non solo, diciamo, l'impianto centralizzato satellitare c'è già, però non è più, è obsoleto, va rifatto. Siccome a me non interessa, posso considerarlo come innovazione e rifiutarmi di pagare la mia quota, o sono obbligato comunque, come dice l'amministratore? Certo, sulla base, diciamo, di una maggioranza che è stata raggiunta in assemblea. Massimo, grazie. Avvocato Cirla. No, non può rifiutarsi, perché proprio con riferimento al problema delle antenne centralizzate, proprio per evitare lo scempio che assistiamo visivamente nelle varie città, è stato introdotto il concetto di innovazione necessaria. Quindi cosa vuol dire? Che l'antenna centralizzata, con la maggioranza semplice addirittura del terzo, quindi non più neanche la maggioranza richiesta per l'innovazione, obbliga sostanzialmente anche i condomini dissenzienti, ancor più nel caso in specie, quando mi sembra di capire l'unico dissenziente è un condomino sulla maggioranza. Però ecco, teniamo presente che per le antenne centralizzate vale il concetto nuovo, se vogliamo nel nostro diritto, di cosiddetta innovazione necessaria, che quindi obbliga comunque tutti i condomini, e quindi non è più considerata una innovazione invece voluttuaria, come era considerata in precedenza dalla giurisprudenza più remota. Ecco. Infatti, allora, in tutto questo abbiamo terminato la trasmissione, non abbiamo avuto il tempo di riparlare, ma lo abbiamo fatto abbastanza bene un mese fa, ma lo rifaremo, delle tabelle millesimali, di tutta la rivoluzione arrivata con la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione. Però io devo ringraziare i miei tre ospiti, che sono sempre ottimi e bravissimi. L'avvocato Cirla, buona giornata, presto. Grazie, buongiorno a tutti. Veniva da dire avvocato dell'oste, ma non esageriamo. Però insomma non è detto che diventi anche tu uno dei massimi esperti in materia, lo sei già. Grazie Cristiano, e grazie anche all'avvocato Correale. A presto, avvocato. Buongiorno, arrivederci. A presto. Salva Danaio termina qua, ritorneremo presto su questi argomenti che vi appassionano sempre molto. Intanto grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Filippa Oreggi in assistenza tecnica. Ci sentiamo domani, buona giornata a tutti.